Ça se bute pour un centime dans des bourges insensibles. Du meurtre aux embrouilles infantiles. Ça se vide quand vient l'été, ça pète les tailles et les bouches d'incendie. Les bambins grandissent, bientôt ils se disent grands bandits. Brigands, ils brandissent les armes et se font vite prendre. Depuis le 11 septembre, ils font que des bas de couleur gratte-ciel. Quand au marché, tu trouves du seum entre les prunes et les pastèques. Je me suis jamais rendu, je résiste à ce monde en flux tendu. 18ème merveille du monde, ne cherchez plus les jardins suspendus. C'est pas du street art, ma seule galerie. Sur le toit d'une voiture, sur une toiture, j'ai la trentaine, mais toujours une voix crue. À coup, tu mets les pieds, les keufs, ils doivent tes pieds. C'est drive-by parce que t'habites de l'autre côté de la voie ferrée. Mat les gueules, ça mes cœurs, esquinté, éreinté. Je roulais un terre, je voulais un thème et j'ai que la vue du sacré cœur. Ça dégueule, ça roupille, pas de looping, la routine. J'arrive tout de suite, pour l'instant je dors à trois stations de là où je vis. Je m'en vais là-haut sur la butte pour regarder la ville. Une gargouille de plus, les rues sont folles, on dirait des rapides. Pour tous les frères du père, voilà pour faire du zèle. À tous ceux qui abusent, monte sur la butte pour m'approcher du ciel. Je m'en vais là-haut sur la butte pour regarder la ville. Une gargouille de plus, les rues sont folles, on dirait des rapides. Pour tous les frères du père, pas là pour faire du zèle. À tous ceux qui abusent, monte sur la butte pour m'approcher du ciel. En cas de pépin, tu me couvres, mais qui sera là, j'ai quelques doutes. Je reviens à l'heure à laquelle l'inspecteur se couche. Grosse secousse, si t'es nerveux, tu vas connaître le beans. Un caillou fera l'affaire, pas besoin de la catafiore pour que les fenêtres se brisent. Été 2015, sur la butte, c'est mieux qu'Ibiza. Cocktail bizarre, on mélange la vodka et le bizarre. Ici, les gens se fascinent pour les écrans tactiles, les antalgiques, des grands trafics. Confond pas l'argent sale avec l'argent facile, vie monotone. Je suis près du four, appelle-moi Domo Void. Pourquoi nos mômes volent passent de l'école au squeezer molotov. On est filmé comme Truman, les rues ressemblent à des couloirs, des couches, d'art sous pushka. Davaï, davaï, je reste fidèle au rap. Parce qu'il reste là même quand j'ai pas la foi. Le soir je me pète la voix sur des sommeurs qu'on ait dit savoir. Même absent je suis dans ton bat, victorieux sans combattre. Il faut que je bombarde, j'ai mis mon blaze sur tous les bancs de mon match. Je m'en vais là-haut sur la butte pour regarder la ville. Une gargouille de plus, les rues sont folles, on dirait des rapides. Pour tous les frères du père, pas là pour faire du zèle. A tous ceux qui abusent, monte sur la butte pour m'approcher du ciel. Je m'en vais là-haut sur la butte pour regarder la ville. Une gargouille de plus, les rues sont folles, on dirait des rapides. Pour tous les frères du père, pas là pour faire du zèle. A tous ceux qui abusent, monte sur la butte pour m'approcher du ciel. Tous fêlés, odeur de joint sur le CV. Dents serrées sur la paume de la main, c'est pas du aîné. Ma con s'est mal caché quand j'ai la braguette ouverte. Pour parier ta table, j'ai mis ma plaquette sous le verre. Ils mettent un nouveau terminus, mais nous on rentre les mêmes délires. Ma qui la rame en 7 minutes, on n'a pas besoin de la MD10. Usine à crack, sur l'île de France, c'est Alcatraz. Vie est triquée, tout est truqué, tu peux même perdre si t'as 4 as. Je m'en vais là-haut sur la butte pour regarder Paris, paradis des Slardis. Tu vois que tu vises des parvis au parking, y'a que de l'asphalte. C'est malsain, même sans un tas de gros mots. Fraudeur de la NASA, un clandestin en combi d'astronaute. Je m'en vais là-haut sur la butte pour regarder la ville. Une gargouille de plus, les rues sont folles, on dirait des rapides. Pour tous les frères du père, pas là pour faire du zèle. A tous ceux qui abusent, monte sur la butte pour m'approcher du ciel. Je m'en vais là-haut sur la butte pour regarder la ville. Une gargouille de plus, les rues sont folles, on dirait des rapides. Pour tous les frères du père, pas là pour faire du zèle. A tous ceux qui abusent, monte sur la butte pour m'approcher du ciel. Buongiorno a tutti e bentornati a Carta Canta. Buongiorno. Buongiorno. Ciao. Vi siamo mancati, immagino, visto che è un bel po' che non avete nostre notizie, che non ci sentite su questi canali. Vabbè, sono state delle settimane un po' complicate, un po' complesse, e dove sono successe delle cose di cui tra l'altro ci hanno anche un po' ispirato a parlare di quello di cui vogliamo parlare oggi. Però intanto noi vi ricordiamo che torneremo in diretta ogni martedì da mezzogiorno all'1:30. Le repliche non ci ricordiamo quando sono, andatevi a cercare sul sito di Wombat, dove trovate pure i nostri podcast. E vi ricordiamo sempre il nostro bellissimo blog origami.noblogs.org, la cui redazione, chiamiamo la redazione, cura questa trasmissione. Di cosa parliamo oggi? Parliamo di un argomento che è uscito un po' dai radar del dibattito interno, un po' tra i gruppi rivoluzionari, militanti. Però i fatti che sono successi nell'ultimo mese ci hanno un po' interrogato, ci hanno fatto domandare perché questo è successo. Perché non si parli più di questa cosa, e quindi con questa trasmissione vogliamo un po' provare a riallacciare i fili dove erano stati interrotti. Di cosa parliamo oggi? Dai, chiediamo. Le nostre speaker si vergognano un po'. Vabbè, non c'è Va bene. niente di cui vergognarsi, dai. Oggi parliamo di droga, diciamo. È un effetto sonoro, dai, non vi studiate le tecniche radiofoniche moderne, cioè non dovete spaventarvi. Vabbè, magari se mi avverti quando spengi o accendi il mio microfono mi fai un No, no, favore. il microfono è acceso, Ah, la ok, prossima volta ti perfetto. farò un segnale, dai. Ti ho appena offeso in diretta, ma tanto i nostri ascoltatori sono più o meno due, quindi va bene. Oggi parleremo di droga. Intanto, cos'è che ci ha fatto partire sul ragionare di questo argomento? Sono stati fatti che sono successi recentemente in Polveriera, che è uno spazio occupato in centro, in cui ci sono stati dei problemi di gestione, di autogestione dello spazio, dovuti alla presenza di determinate persone che avevano dei comportamenti non consoni allo spazio. E queste persone Sono state allontanate, sono state però allontanate. il problema è che nel discorso pubblico che è uscito Sì, dobbiamo dire che sì, ma no, continua, si è scusa. voluto ricondurre tutto principalmente a un problema di spaccio di droga. Era anche comunque uno dei problemi che avevano queste persone, ma l'altro problema molto importante era anche che avevano degli atteggiamenti sessisti e violenti che alla fine hanno scaturito tutta questa faccenda. Cioè, il problema che a noi ci ha fatto un po' domandare su qual è il punto, qual è lo stato del discorso a proposito della droga, soprattutto nel mondo dei compagni, è che almeno a primo acchito tutto il discorso sull'allontanamento di queste persone si era appiattito molto sul discorso dello spaccio, cioè nel discorso pubblico. Che poi è uscito, quindi che è il modo in cui i compagni dello spazio, ma anche tutti i compagni della città che comunque li hanno aiutati in questa scelta, in questo passo, che ha comportato anche livelli di tensione notevoli, e si era appiattito sul fatto che queste persone erano state cacciate perché spacciavano. E quindi si era, tutta la questione si era un po' strutturata come un presidio permanente contro, lo spaccio. Cosa che Questo. alla fine in realtà, cioè sì, era contro quei determinati spacciatori, ma in realtà era, il presidio voleva essere contro determinati atteggiamenti che non rendevano lo spazio sicuro. Cioè, il discorso era un po' più complesso di come era stato fatto uscire all'inizio. Infatti, poi comunque devo dire che i compagni questo l'hanno capito, hanno un po' riassestato il tiro con dei comunicati successivi. Però tutto questo ci ha fatto capire una cosa, ci ha fatto capire che il discorso sulla droga oggi è lasciato totalmente alla controparte. Che noi non abbiamo un nostro discorso su questo argomento qui, ma molto spesso finiamo per ricalcare pedissequamente il discorso che fa il nemico. E Non quindi ho capito parliamo cosa anche vuol noi. dire Vabbè, pedissequamente, però. prenditi un dizionario e cercatelo. Puoi anche parlare. Parla come lo mangi. Io spero che i nostri ascoltatori abbiano una cultura media più elevata della tua. Lo spero per loro, sinceramente. Ok, se non sapete cosa vuol dire pedissequamente, scrivete una bella mail alla redazione di Radio Wombat lamentandovi per il lessico che usiamo in Che usi. trasmissione. Ma non penso che sia questo il caso. Comunque, dicevamo, pedissequamente vuol dire. Vuol dire se seguire fedelmente, potremmo parafrasarlo così. In sostanza, il discorso dei compagni molto spesso segue fedelmente il discorso che fa lo Stato, che fa la controparte. Quindi Sì, anche diciamo che in se. questo caso era anche. diciamo, più facile farsi intendere verso l'esterno usando questa retorica. Sì, però cadendo anche un po' in delle incomprensioni, anche delle ipocrisie magari. Abbastanza gravi comunque, che riguardavano anche magari la gravità dell'esporsi comunque all'esterno, valorizzando semplicemente il valore della sicurezza all'interno degli spazi e non considerando invece quelli che sono le varie difficoltà dell'approccio allo spaccio, alle droghe, del perché esistono, in che contesto vengono supportate, perché ci sono dei comportamenti sovradeterminanti, così come nelle piazze, nelle strade e anche all'interno degli spazi. Abbiamo pensato che fosse un po' scontato e anche abbastanza svilente, quindi abbiamo fatto delle ricerche, abbiamo letto delle cose assieme per parlarne e cercare di sviscerare quelle che sono un po' questioni di cui in realtà in passato si è già parlato e di cui vorremmo specificare le condizioni, per l'appunto. Cioè sì, in sostanza era un discorso trito e restrito fatto perché quando cerchi il consenso un po' dell'opinione pubblica sei anche portato a dire cose che l'opinione pubblica è già abituata a sentire. Sì, perché ovviamente è molto più facile dire siamo contro lo spaccio che dire in realtà noi non voi, cioè almeno parlo personalmente, io non credo di essere contro lo spaccio nel senso che non vorrei che quelle persone finissero in carcere, perché comunque è una cosa in cui non credo. Però credo che comunque i posti vadano difesi da determinati atteggiamenti, appunto. Certo. Bene, mettiamo un po' di musica e poi vi raccontiamo cosa abbiamo scovato frugando nei nostri archivi e in che modo proviamo un po' a centrare in maniera che a noi sembra più consona alle nostre capacità e anche al nostro modo di vivere l'argomento. Boy, and Cosa abbiamo scovato nei nostri archivi? Bene, intanto vi consigliamo un opuscolo a cui ci siamo ispirati, che è Quel ramo del lago di Narco, della droga e il suo diritto, di Riccardo D'Este e Gabriele Pagella. E parliamo appunto di qual è il messaggio che ci manda la controparte. Il messaggio che ci manda e in cui rischiamo di cascare è quello del terrorismo della droga, che si contrappone piuttosto all'informazione, invece all'uso consapevole di queste. E il terrorismo della droga si allaccia molto bene al discorso del degrado e del decoro, ovvero la paura di tutto ciò che non è comunque ordinario nelle nostre vite. Il problema molto spesso dalle istituzioni, a mio parere, non viene mai affrontato in modo critico, e l'accento viene sempre posto sul trovare un nemico, un qualcuno da incolpare, e questo qualcuno appunto è la figura del drogato oggigiorno. E, come dire, non parliamo mai invece dei modi che vengono utilizzati per contrastare appunto certi fenomeni che spesso sono ingiusti. Poniamo per esempio l'accento sulla violenza poliziesca. Sì, non viene mai affrontato il problema della droga per quello che in realtà è, cioè un fenomeno sociale, quindi un fenomeno che ha delle sue ragioni sociali. Sappiamo benissimo che comunque le droghe sono utilizzate in maniera diversa anche a seconda della classe, dei consumatori, delle proprie disponibilità economiche, del proprio ruolo nella società. Sappiamo benissimo che ci sono droghe che sono socialmente accettate e droghe che in realtà non lo sono. Queste cose molto spesso vengono dimenticate e invece viene assolutizzato il fenomeno della droga e se ne parla in termini quasi esclusivamente etici, cosa che noi non siamo portati a fare mai, e invece noi ci teniamo sempre a ricondurre tutto alla natura politica e sociale alla fine di un fenomeno. Infatti, se pensiamo anche al fatto che comunque per altre sostanze che possono essere considerate delle droghe, diciamo che non viene creato questo ruolo negativo che è il drogato. Per esempio, se una persona beve ogni tanto, come può capitare a tutti, non viene chiamato subito alcolizzato. Oppure se una persona fuma ogni tanto non è subito un tabagista, mentre se una persona si droga anche una volta o sporadicamente è immediatamente un drogato, nel senso negativo della parola stessa. Con questo, secondo me, la cosa che a noi interessa è un po'... ovviamente provare a decostruire tutto il discorso che il potere fa su queste cose, però con tutto pensiamo che ci sia anche un problema fondamentale di fondo, che è un po' l'altra faccia della medaglia, cioè l'altra faccia del proibizionismo, cioè non riconoscere che in sostanza la natura della droga nella società capitalista odierna, come un po' tutte le cose, però forse in questo caso è proprio evidente, anzi proprio paradigmatico, è il fatto che la droga sia una merce, anzi, quasi la merce per eccellenza, poiché ha delle caratteristiche proprie della merce che riproduce all'ennesima potenza, come il fatto che proprio per le condizioni sociali in cui si viene a riprodurre questo fenomeno, cioè tipo per esempio il fatto che non è legale, il fatto che comunque provoca delle forti dipendenze, ha una capacità di autovalorizzazione assoluta. Per cui anche quando parliamo di spaccio di droga, dovremo anche qui tenere un po' in conto che questa natura di merce della droga, cioè il fatto che quando si parla di spaccio si parla di profitto, di valorizzazione, Per cui nel momento cosa possiamo avere noi contro gli spacciatori? Sostanzialmente è un po' quello che abbiamo contro i piccoli capitalisti, i padroncini, cioè il fatto che comunque sono portati a sfruttare il lavoro altrui o in questo caso la valorizzazione di una merce per creare profitto e conquistarsi comunque un ruolo di potere. Anche in questo caso, per tornare un po' agli episodi che hanno causato anche questa puntata, nella storia degli effetti di questi episodi c'è anche questa puntata, quello che a noi proprio non andava giù del comportamento di questo gruppo di persone non era tanto quello che facevano, la maniera in cui sopravvivevano o il modo in cui sceglievano di condurre le loro esistenze, era proprio il ruolo di potere che avevano assunto all'interno di un determinato spazio che invece nasce proprio per provare a decostruire questi ruoli di potere. Ed è questa una cosa che non può mai essere accettata, secondo me, da dei compagni. Cioè la presenza di soprusi, la presenza di violenze, la presenza di persone che detengono un determinato potere su altre persone. Questa è una cosa che non può mai essere tollerata. Non tanto lo spaccio, perché ci sono tantissime persone che io mi sento totalmente di difendere, che spacciano per sopravvivere. Io non mi sento di condannarle e non mi sento nemmeno di giudicarle in base alla sostanza che spacciano. Cioè a me sembra una distinzione totalmente legalitaria con cui molto spesso ci si vuole un po' pulire la faccia, la distinzione tra droghe pesanti, droghe leggere. Io non credo che esistano sostanze che di per sé fanno male. Ovviamente dipende tutto dall'utilizzo che se ne fa. Cioè l'essere umano assume droghe da quando è un essere umano. Cioè ricerche antropologiche hanno dimostrato che l'Homo sapiens già nasce, proprio alla nascita della specie, con gli enzimi per metabolizzare l'alcol, per esempio. In tutta la storia delle culture storiche, diciamo, che sono documentate, esistono episodi, cioè esistono fatti culturali che attestano un consumo di un determinato tipo di droghe. Questo utilizzo di droghe è giusto o è sbagliato? Anche qua dipende dal contesto. Per esempio, nell'opuscolo troviamo determinati esempi, come il fatto che il consumo di coca, che di per sé non è negativo nel senso, però nelle civiltà precolombiane americane veniva usato per far sopportare ai contadini, al ceto contadino, che era il ceto più sfruttato delle società precolombiane, condizioni di lavoro mostruose. Ma qui si rientra anche nel discorso della droga come merce, se lo inseriamo nel contesto appunto del sistema lavorativo attuale, cioè molto spesso la droga è funzionale anche allo Stato quando si vuole che una persona sia più produttiva e più appunto veloce nelle sue mansioni. Pensiamo appunto a chi ha lavorato nella ristorazione o in locali o in bar, sa benissimo cosa vuol dire avere colleghi o magari anche esperienze personali in cui ha dovuto fare uso di droghe per mantenere un certo, certo livello di prestazione. Una certa sì. Produttività. Quindi anche per questo è funzionale allo Stato e quindi sì, devo dire che anch'io non ho mai conosciuto un barista che non beva, per esempio. Cioè, come fai a sostenere 8 ore di lavoro in un bar dove sei anche obbligato a parlare con le persone, ad essere simpatico e tutto, senza bere un gocciolino d'alcol, soprattutto quando non fai altro che servirlo per tutta la sera? Esatto. Cioè, è veramente difficile. Quindi c'è anche di questo ci piacerebbe parlare, del modo in cui l'utilizzo delle sostanze rientra in quella che è la società dei consumi, cioè il fatto che sostanzialmente il consumo copre un po' il senso di vuoto che noi proviamo nelle nostre vite. E questo ci riconduce a, diciamo, delle facili vie d'uscita, delle facili scorciatoie, cioè nel rapporto che noi abbiamo con la droga non siamo obbligati a avere uno scambio di nessun tipo, basta che andiamo con i soldi in mano, compriamo la droga, la consumiamo e questo ci solleva da un sacco di responsabilità e ci provoca anche sensazioni piacevoli che ci fanno un po' dimenticare il senso di vuoto che proviamo nelle nostre vite. Sì, ma poi non è solo la droga in sé, cioè pensiamo anche solo alle persone che con lo shopping si sentono meglio, no? Quindi anche questo in qualche modo è un consumo di droga. Insomma. Infatti io sono abbastanza d'accordo all'allargamento un po' del concetto, cioè non parlare solo della droga in quanto sostanza, ma parlare della droga in quanto fenomeno. Sì. È per questo che magari cose come lo shopping, le serie televisive, anche il cibo a volte può diventarlo. Sì. Possono essere considerate, secondo me, a tutti gli effetti delle forme di droga. Ovviamente non tanto per il fatto che le assumono e ti sballano, ma proprio per il ruolo sociale che hanno, per il fatto che ti causino una dipendenza e che ti alienano fondamentalmente dai problemi reali. Una cosa a cui vorrei fare accenno è comunque uno stato di perbenismo repressivo nel quale comunque una persona nasce, cresce, si sviluppa e può decidere di stare in determinate conformità, può decidere di avere una vita sana che rispetti i contenitori che vengono proposti dalla società, oppure può ovviamente soffrendo sicuramente di quelle che possono essere condizioni negative, oppure può cercare di dare sviluppi diversi che comunque vengono attaccati. Infatti all'interno di questa fanzine, questo piccolo lettura che abbiamo fatto, si parla anche di altre due entità che sono appunto il carcere e la comunità di recupero, che sono entrambe due spazi non strettamente fisici in cui viene esercitato un controllo, per il quale comunque se io cerco di trovare spazio in una società in cui non ce l'ho, di trovare una diversità, un diverso sviluppo tramite quello che potrebbe essere un'esperienza con la droga, quindi un'alterazione di me stesso, posso riscontrare delle pene veramente forti o decidere di essere reintegrato a seconda di come lo Stato percepisce il mio potere di sviluppo. E quindi comunque essere costretto ad avere una scelta che sia condotta da qualcun altro, per cui io non arrivo mai a una soluzione, ma sempre a uno stato di alterazione di quello che sono, ma comunque dettato da un'imposizione più alta. E questa è la cosa che più mi ha fatto pensare, perché in un mondo in cui tu al di là del concetto della droga e dell'uso e del consumo che potrebbe essere anche veicolato da delle buone condizioni, invece è in mano appunto alla mercificazione, quindi al soldo e quindi allo sfruttamento, e quindi perdi di valore e oltretutto la pena che ti viene data è alta ed è comunque scelta da qualcun altro. È questo che veramente a me mi ha fatto molto riflettere. E questo era Hurricane Mixtape. Hurricane Mixtape, mezzo sangue. Yes, dimmi che sapore c'ha. Vai.

il drogato prima è drogato, poi ha bisogno dei soldi per cercarsi la droga e quindi diventa il delinquente e poi molto spesso può diventare anche lo spacciatore. Quindi c'è sempre questo alone per cercare di individuare il nemico comune, come capita spesso anche oggi con la figura del migrante, ecco. Sì, si va un po', diciamo, ad alimentare. È un sistema che si alimenta da sé, cioè un circolo vizioso. Sì. Nessuno mette in dubbio che un tossicodipendente commetta dei reati. Però questo è funzionale alla società. La società ha bisogno di delinquenti per funzionare. Sì, perché poi ci sono tutte quelle figure, quegli specializzati appunto, che ruotano intorno a questa figura del drogato, della delinquenza. Cioè, se pensiamo anche alla fine, se non ci fosse delinquenza non ci sarebbero le carceri, se non ci fossero i tossicodipendenti non ci sarebbero i centri di recupero, non ci sarebbero quelle figure specializzate appunto per questa cosa. Questo per sottolineare il fatto che alla fine l'obiettivo della controparte non è sicuramente quello di eliminare il drogato o il delinquente. Questo dà vita a due tendenze che sembrano opposte, ma che in realtà secondo me sono anche, cioè combaciano, cioè si sposano bene a vicende, che sono da una parte il proibizionismo e dall'altra i legalitaristi, cioè quelli che vorrebbero proibire totalmente qualsiasi utilizzo di droga, dalla cannabis all'eroina. L'alcol no, ovviamente, perché a livello culturale ormai è accettato da quando esiste la società occidentale, da più di 3.000 anni, quindi non si può proibire. Quindi forse tra 3.000 anni anche la droga sarà così. Forse. E dall'altra ci sono quelli che invece vorrebbero legalizzare la droga, cioè vorrebbero ricondurre tutta questa forma di profitto legata alla droga dentro l'alveo dello Stato. E infatti, se ben ci pensate, per dire, questo opuscolo è un po' datato, del 93. Appunto, perché di droga ormai se ne parla ben poco anche. E parla di una legge a firma Pannella che in quell'epoca si stava discutendo. Pannella chi era? Pannella era uno a favore della legalizzazione della droga, era il leader storico dei radicali, ma perché voleva legalizzare la droga? Perché da liberale vero come erano i radicali volevano garantire allo Stato la possibilità di farci profitto sopra. Non è che lo volessero fare semplicemente per un motivo etico, ma pensavano che fosse molto più funzionale che questa cosa fosse controllata dallo Stato piuttosto che da suoi gruppi concorrenti, come possono essere le varie organizzazioni mafiose, che però non sono in nessun modo alternative allo Stato, anzi sono complementari ad esso. Non è che queste organizzazioni combattono contro lo Stato, anzi il contrario, provano, diciamo, a ritagliarsi degli spazi di intervento dove lo Stato è assente, ma in nessun modo si propongono mai come anti-Stato, semmai si propongono come diciamo un'alternativa allo Stato, ma che ha sempre i caratteri dello Stato. Cioè dove lo Stato non c'è, dove visto che lo Stato non è uniforme, non esercita in maniera uniforme il suo potere ovunque, ci sono dei punti in cui ovviamente è più forte, che possono essere le grandi città, le grandi metropoli, dove vedete uno sbirra ad ogni strada, ovviamente perché lo Stato è lì, è presente, è forte, o comunque vuole farsi vedere. È ovvio che tipo nelle campagne, nelle montagne, lo Stato sia meno presente, non può controllare tutto il suo territorio in maniera uniforme. E in questi posti, che possono essere magari anche i quartieri un po' più popolari delle grandi città, soprattutto del meridione, dove lo Stato è storicamente meno presente, installano, diciamo, questi gruppi che appunto usano, come dicevamo prima, il sistema della droga come una forma di profitto. Il sistema della droga e di tutte le dipendenze che la droga induce, perché anche questo è uno dei fatti centrali della droga, che ha una natura sociale così invadente perché le persone ne hanno bisogno. E il fatto che ne abbiano bisogno non è un effetto collaterale della droga, ma è anzi uno dei punti centrali. Le persone si drogano perché vogliono essere dipendenti, cioè chi fa utilizzo di droga, di sostanza, vuole una dipendenza, vuole qualcosa che riempia la sua vita, come anche solo una dipendenza sa fare. Sì, vuole, diciamo, una ripetizione, un cercare, visto che comunque la società ad oggi ci fa credere che la nostra vita deve essere una ripetizione di cose, come può essere il lavoro, la scuola, la famiglia, un'abitudine costante. Quelle persone che si sentono fuori da questi giri, che si sentono inadatte, si sentono diverse a questi schemi, cercano alla fine di riprodurre quelle cose e di avere una ripetizione nella loro vita, che in questo caso è la droga, che si sposa benissimo anche per quanto crea dipendenza comunque. Bella figlia dell'amore, schiavo son dei vezzi tuoi, con detto sole, senti del mio cuore il frequente palpito. Piangere non vuoi, ci vado, non ci vado, non ci vado, no no no che non ci vado, in gabbia non ci vado, non ci vado, non ci vado, in gabbia non ci vado, no no no che non ci vado, in gabbia non ci vado, non ci vado, non ci vado, in gabbia non ci vado, no no no che non ci vado. San Vittore nel mio cuore, regina cieli, oh, sembra ieri, busto arsizio, ma che sfizio, corona, Fabrizio, in gabbia con Gabbana. E il dolce? A casa, rubi e ruba cuori, vieni dentro, vieni fuori, ma resta il Polanco, vado in cella o vado al Blanco, quest'ora da paura, dov'è la mia tempura? Ok, la parte seria della puntata è finita, possiamo dire. Ora invece ci diletteremo dal racconto delle esperienze personali delle persone presenti in studio, tranne il sottoscritto che non parlerà perché mia mamma ascolta questa trasmissione. A proposito, ne approfitto per salutarla. Ciao, ciao mamma! Ok, io vado a farmi un giro mentre in studio si divertono a parlare dei cazzi loro. Beh, direi che dopo Mischeta che salutiamo anche lei, sicuramente ci sta ascoltando, direi che è opportuno. Io personalmente non ho una grandissima esperienza con le droghe, però posso dire che è una cosa che mi è sempre molto, mi dispiace molto, o nei miei confronti o spesso anche da parte di altre persone, spesso la vergogna anche di chiedere qualcosa riguardo a la droga in particolare, magari prima di assumerla, o magari appunto il sentimento di potersi sentire appunto, come dire, poco liberi di poter provare. Esatto, poco liberi, ma più che altro liberi di poter chiedere, di potersi informare. Anche io sì, no, magari ho un po' di più esperienze, E sempre, io ho sempre fatto uso di sostanze solitamente, diciamo, in situazioni di feste, di diciamo con i miei amici, in situazioni belle in cui volevo far serata. In pratica mi è sempre piaciuto lasciare quelle sostanze in quei contesti determinati per cercare di non farmi prendere, anche perché alla fine le droghe, lo sappiamo, danno sensazioni molto piacevoli e sono molto belle, e quindi c'è sempre il rischio un po' di esagerare o di, appunto, di andare oltre, esserne un po' dipendenti, e quindi mi è sempre piaciuto, diciamo, tenerle lì. Quando voglio fare una festa, quando vado a un rave, sì, mi piace usarle, mi piace provarle, ma non voglio che comunque facciano parte del resto della mia vita, quindi l'ho sempre tenuto un po' in una sorta di bolla. E per ora mi è sempre piaciuto, ho sempre avuto delle esperienze super positive, e devo dire che anche uno dei motivi principali per cui mi piacciono quelle sostanze è anche il fatto che comunque si viene a creare con le persone con cui ne fai uso, si vengono a creare dei legami molto, molto stretti, molto forti, sia in quel momento, perché appunto siete tutti alterati, cioè siamo tutti alterati, quindi è bello avere anche dei rapporti particolari con delle persone con cui non, magari in altre situazioni non riusciresti nemmeno a averli, o perché non le conosci bene, o perché magari non vi trovate troppo bene, però ci sono quelle situazioni strabelle in cui c'è una sintonia fortissima nel gruppo. E quindi sì, mi è sempre piaciuto prenderle in compagnia con i miei amici, e in queste situazioni in cui mi sento libera di poterle prendere, come possono essere delle feste, dei rave soprattutto. Anche io volevo fare un appunto sul fatto della condivisione dell'utilizzo, visto che molte volte diamo per scontato che in situazioni di condivisione, divertimento, sia facile rendersi conto di quello che si sta facendo. A volte questa condivisione manca, e è molto importante che ci sia, anche proprio per lo sviluppo in sé, perché comunque quando si è insieme e si ha la facoltà di capire meglio, poi appunto nasce quel tipico rapporto di fiducia per cui non si ha paura, ma semplicemente si sta provando una cosa nuova che può anche non per forza essere assoluto. La fiducia deve esserci prima. È chiaro, ovviamente. Perché se non hai fiducia nelle persone, nel gruppo con cui sei, è meglio se non ti trovi. Sì, esatto. Anche questo secondo me è una cosa davvero molto importante, il fatto di sentirsi tranquilli quando si prendono delle droghe, avere delle persone accanto di cui ti fidi e che sai che comunque in qualsiasi caso hai un appoggio, e non farsi prendere male. Perché la prima regola per avere delle belle esperienze è prendersi bene e credere che sarà una bella esperienza. Già. Un'ultima cosa che volevo raccontare è stato appunto l'ultimo anno di esperienze, di serate insieme a, più che altro all'interno di ambienti LGBT, nel quale appunto c'è sempre stato questo tipo, come tanti altri, cioè anche tante altre situazioni, scambio appunto di sostanze per lo sviluppo di serate, stare insieme, ed è stato molto interessante perché appunto anch'io ho avuto modo di vedere che quella tipica confidenza, quello scambio, quella scoperta di te stesso che hai, può avere vari mondi, e non deve essere per forza visto in negativo con un'ottica proibizionista, ma può essere anche un momento molto piacevole se è contestualizzato. Sì, appunto una cosa su cui io ho ragionato molto è che alla fine le droghe a me non mi hanno lasciato solo un momento bello in quella circostanza, ma mi hanno lasciato anche qualcosa dopo, perché comunque sono riuscita a conoscere delle parti di me che sinceramente senza l'aiuto delle sostanze non avrei mai conosciuto. Quindi per me sono sempre state anche un'esperienza buona per la mia vita anche al di fuori di quei contesti, di quelle feste, e che mi hanno aiutato anche appunto a conoscermi e a scoprire cose che non avrei scoperto senza. Sì, esatto, quando ti svegli il giorno dopo dici oddio che cosa ho fatto, però forse c'è un motivo per cui l'ho fatto, riflettiamoci sopra. Sì, esatto. Oppure quando sei super dolce dici oh mio Dio, ma io posso davvero essere così dolce, com'è possibile? Esatto. Sì. Va, mettiamo un po' di musica. Ok, ci avviamo alla chiusura di questa puntata e vi raccontiamo un po' le belle cose da fare questa settimana. Intanto iniziamo da stasera, dove in Viale Corsica 81, nell'occupazione omonima, si proietterà un bellissimo documentario su la situazione in Grecia e un po' tutte le esperienze rivoluzionari di autogestione che hanno avuto luogo in questi 10 anni nel paese ellenico, che è uno dei paesi che più ha accusato la crisi del 2008, una crisi da cui ancora non è uscito, però appunto questa crisi, questa totale distruzione di tutti i sistemi di welfare, dell'appoggio dello Stato alla popolazione, ha dato vita anche a interessantissime esperienze di autogestione e hanno dimostrato ancora una volta che le persone non hanno bisogno dello Stato per vivere e per vivere bene soprattutto. Procedendo nella settimana. Questa settimana abbiamo anche una bellissima trans, ovvero una trans LGBTQIA. Transfemminista. Di tutto scusate, ragazzi, così. E, il 24 ci ritroveremo insieme per sistemare, ovviamente. 25 ci saranno assemblee, presentazioni e dibattiti con qualche concerto la sera, e anche il 26 saremo pieni di iniziative, quindi vi aspettiamo per una bellissima giornata squirtosa a Firenze. Data e cioè, posto da sapere, basta che rimanete aggiornati sulla squirt, sulla anche pagina Facebook. Anche su Round Robin si trova. Perfetto. E invece domenica avremo anche, ci sarà un'altra giornata in uno spazio occupato, cioè uno spazio sgomberato qualche mese fa, che è il Rovo, e ci sarà una giornata appunto per cercare di riappropriarci del posto. Quindi a Rovezzano, in via di Guarlone. Sì, non ho detto niente, scusate. Grazie, utilissima. Hai il Rovo. Cioè, la gente ci ascolta perché vuole delle informazioni, immagino. Ci vediamo al Rovo, no, a Rovezzano. In via di Guarlone, dall'1:30, cosa ci sarà? Ci sarà un... Noi ci guardiamo nel viso, anche no, ci sarà un pranzo, ci sarà il live painting e poi ci sarà un allenamento di box e comunque saremo lì a... Il mercatino di mano in mano. Anche il mercatino. E non li sai vende bene gli No, eventi. Avete ragione. Mi sa che devi cambiare mestiere. Potete andare su Facebook, riprendiamoci il Rovo e avrete tutte le informazioni. Non sei adatta per Radio Wombat. Mi sa che ti vendiamo a Controradio. Tanto sono più scarsi. No. Mandati a settembre. Quindi niente, ci vediamo, speriamo, stasera o questo fine settimana. Sicuramente ci sarà la presa bene, che è l'unica cosa che conta alla fine. E niente, ci vediamo la settimana prossima per una bellissima puntata con Pasquale Abatangelo e vi salutiamo. Okay. Ciao, baci. Ciao.